Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo di Europa nel doppio fronte, da un lato di quanto deciso ieri in nottata per quello che riguarda i rapporti con la Turchia, le richieste, tutto rinviato al 17 marzo, ma comunque da quello che si è capito, insomma, l'Europa, come scrive giustamente oggi Adriana Ceretelli su Sole 24 Ore, un po' perplessa ma bozza, per usare un termine poco tecnico. La Turchia ha gioco facile nel raddoppiare la posta da 3 a 6 miliardi, nel chiedere lo snellimento di tutte le procedure per i visti, liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi e l'accelerazione dei negoziati per l'adesione. L'Europa, e mi riferisco sempre all'editoriale di oggi su Sole 24 Ore di Adriana Ceretelli, non è riuscita nemmeno a imporre il minimo sindacale, cioè chiedere alla Turchia di Erdogan di essere un paese più civile dal punto di vista dei diritti democratici, e mi riferisco alla libertà di stampa che è pesantemente, diciamo, sotto gli standard minimi europei, e di espressione, la tutela delle minoranze, la curda in primo luogo, la parità di genere, pure lì non c'è nulla che assomigli alla parità di diritti tra uomo e donna che esiste in Europa. Però tale è la confusione o il rischio soprattutto che non regga più la frontiera greca, visto quello che sta capitando a nord della Grecia, la chiusura delle frontiere, le iniziative individuali di alcuni paesi anche dell'Unione Europea, penso all'Austria in primis, e tale è il rischio che la Grecia si trovi a diventare il grande centro di approdo e di accoglienza, per modo di dire, di decine di migliaia, già lo è, di nuovi rifugiati, di nuovi profughi, con il collasso di un'economia che da 5 anni in profonda recessione, che obtorto collo si ingerisce anche l'accordo con quello che sembra essere un accordo con la Turchia. Ne parleremo perché da un lato ci collegheremo con la nostra Valentina Furanetto al confine con la Macedonia, con Valeria De Rosa che oggi ha raggiunto Atene per capire la situazione sia economica della Grecia che poi di accoglienza della Grecia. Ne parleremo con la stessa Adriana Ceretelli. C'è l'altro fronte europeo che ci riguarda, però mi riferisco a Bruxelles, in questo caso le ipotesi che Bruxelles possa diciamo sostanzialmente non bastonare, ma insomma l'Eurogruppo ieri ha detto: mentre riconosciamo che il rapporto debito-PIL si è stabilizzato nel 2015 e comincia a scendere nel 2016, l'alto debito resta motivo di preoccupazione. In questo modo, in base alle previsioni, l'Italia non rispetterà la regola del debito nel 2015-2016 e in questo contesto attendiamo in primavera la nuova valutazione della Commissione e accogliamo con favore l'impegno dell'Italia per attuare le misure necessarie. Detto questo, è subito circolata la voce di una nuova manovra bis. Renzi oggi l'ha smentita: non c'è nessun rischio di manovra, i conti italiani sono al sicuro, sono allo strasicuro. E anche Padoan ha detto: non mi sembra che l'Unione Europea ci chieda uno sforzo in più. Anche di questo parleremo. Il Ministero dell'Economia e Finanze oggi ha reso noto che a gennaio le entrate fiscali sono aumentate del 4,7% a 34,5 miliardi, e nel 2015 complessivamente le entrate erariali sono aumentate del 4% a 436 miliardi di euro, quindi 17 miliardi di euro in più rispetto all'anno scorso. E il gettito IVA è cresciuto nel 2015 del 4,2%, sono quasi 5 miliardi di euro in più, per effetto di un miglioramento comunque dell'economia interna, lo 0,8%, che è ancora deludente, non è ancora abbastanza, ma comunque è un segno più, e anche per l'applicazione del meccanismo dello split payment, che da solo vale altri 5,8 miliardi di euro, cioè obbliga la pubblica amministrazione a trattenere e versare direttamente all'erario l'IVA sulle fatture emesse dai propri fornitori. Su questi numeri si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi come ogni giorno anche su Radio Dimensione Suono, e oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli. Il I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Il fisco ha fatto l'en plein nel 2015. Le entrate tributarie hanno raggiunto 436,3 miliardi di euro, con un aumento rispetto al 2014 del 4%. A gennaio il trend continua e le entrate tributarie erariali sono state pari a 34,5 miliardi, con un aumento del 4,7% sullo stesso mese del 2015. Insomma, una performance di tutto rispetto per un paese con il prodotto interno lordo che cresce dello 0, ed è un paese praticamente in deflazione. Nel 2015 la crescita più sostenuta viene dall'IRPEF, ma ci segnalano dal Ministero dell'Economia ci sono motivi contabili e tecnici che hanno portato a un aumento in ragione d'anno del 7,7%. Anche l'IRES, la tassa che pagano le imprese, è cresciuta del 4%. Ma quello che effettivamente è esploso sono le tassazioni sulle rendite finanziarie. Con l'aumento dell'aliquota dal 20 al 26%, le entrate su interessi e redditi da capitale sono cresciute del 10,2%. Gli incassi da redditi da capitale e da plusvalenze sono stati addirittura del 47% erotti in più. Insomma, siamo ancora il paese delle tasse, non c'è che dire. Questo aiuta certo i conti pubblici e può anche significare che l'economia sta cambiando segno e che qualcosa si sta scongelando in questa Italia bloccata. Certo, però, deve continuare anche la lotta all'evasione, proprio per abbattere la pressione fiscale che non sembra voler cedere il passo. Però purtroppo sempre dai dati del 2015 emerge che il gettito legato all'attività di accertamento è calato di quasi il 16% e che gli incassi da ruoli sono fermi a poco più di 9 miliardi. Francamente a me sembra poco. E a voi? Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Anche a noi sembra poco, lo dico ad Alberto Orioli, nel senso che sì, tutte queste maggiori entrate fiscali, diciamola tutta, sono dovute in larga parte, non tutta, ma a appunto una ripartenza dell'economia, un'IVA che è tornata a essere pagata e anche meno evasa grazie allo split payment. Però è indubbio che devi, per ridurre le tasse, a questo punto hai solo una strada: ridurre la spesa pubblica improduttiva. E quindi, ma da lì la spending review fatta bene, non declassando o abbattendo la qualità del servizio, e una lotta all'evasione che non sia solo quella, diciamo, il lato oscuro dell'Agenzia delle Entrate, come disse la direttrice Orlandi, ma che vada a incrociare veramente i dati, soprattutto sulla grande evasione, medio grande evasione, quella più inaccettabile. Non sono più, diciamo, a suo tempo gli studi di settore sui piccoli artigiani che ti fanno fare i numeri. Comunque andiamo avanti, perché non voglio parlare di pressione fiscale oggi, anche perché abbiamo altri temi. Da questo punto di vista la borsa oggi vede Milano cedere meno delle altre borse europee, meno 0,30%, Parigi meno 0,90%, Francoforte pure, Londra meno 1,1%, il Dow Jones meno 0,50%, euro su dollaro a quota 1,10%. Da noi vanno bene Luxottica più 3,20%, Buzzinice più 3, Ferrari più 2,80, Finmeccanica più 2, Mediolanum più 1,90, Pop Milano più 1,70, Mediobanca più 1,5, come Unipolsai, Tods e Tods, Unicredit più 1%, come Telecom Italia e Azimut. Va molto male invece, sospesa più volte per eccesso di ribasso, Saipem meno 13%. Beh, insomma, è stato collocato metà dell'inoptato, di quello che non è stato optato per aumento di capitale, e collocato dei livelli che portano il titolo a 36 centesimi in questo momento, quasi 37 centesimi di euro per azione, meno 13%. È un disastro, sai, in questo momento. Peccato che è una bellissima azienda, ma ne parleremo durante i mercati finanziari. Tenaris meno 4,50 come Fiat Chrysler, CNH meno 3,30 come Eni, il 2,5% perde Anima Holding, il 2,20% del calo di ST Microelectronics, l'1,60% quello della Popolare Emilia Romagna. Il petrolio oggi è tornato leggermente a calare, ma si mantiene sui livelli, insomma, tendenzialmente in media più alti degli ultimi tre mesi, a 36,9, quasi 37 dollari al barile, in calo del 2,5%. Visto che oggi è la festa della donna, intanto l'auguro a tutte le donne, anche però non possiamo fare messaggi dedicati, lo dico alle ragazze del bar Tabacchi, Rendezvous a Portico di Caserta, se iniziamo a far così, voglio dire, auguri a tutte le donne. Devo dire che oggi l'OCSE fa notare come la disparità di genere nella società e nel mondo del lavoro abbia un impatto sostanziale sull'economia globale, un costo in termini di reddito di circa 12 mila miliardi di dollari, pari al 16% del PIL mondiale. Visto che l'8 marzo, vale la pena ricordare anche qual è la classifica la classifica l'ha fatta settimanale di Economist, ancora tra dove c'è la maggiore parità uomo-donna nel lavoro. Allora l'Italia, nonostante insomma non manchino insomma, le ministre e quant'altro, ha perso 3 posizioni dal 2015. Islanda, Norvegia e Svezia sono i 3 paesi sviluppati dove le donne hanno le migliori possibilità di avere parità di trattamento. Si chiama Glass Ceiling, il soffitto di vetro, questo indice dell'Economist. L'Italia è al 21esimo posto, la Francia al 7esimo, la Germania al 17esimo. Siamo però prima del Regno Unito. Andiamo alla Cina invece, perché arrivano altri segnali negativi sull'economia cinese. Tonfo vero e proprio dell'export nel mese di febbraio, meno 25%. C'è una domanda mondiale debole. Però insomma ieri raccontavamo le decisioni del governo di Pechino, che vuole assolutamente andare avanti in questo processo di transizione verso un'economia maggiormente di consumo e non solo di produzione per la Cina. Ottimo invece il dato della produzione industriale a gennaio in Germania, più 3,3%, è il primo aumento in 3 mesi sopra le previsioni degli analisti. E poi le attese per giovedì, quando si riunirà la Banca Centrale Europea. Sappiamo che ci sono molte resistenze in Germania, non solo Weidmann e Schäuble, ma anche i rappresentanti delle casse di risparmio regionali, Sparkasse, contro un ulteriore quantitative easing, quindi un'iniziativa ulteriore della Banca Centrale Europea. In realtà, da quello che si capisce, praticamente Draghi ha intenzione di dare un ulteriore stimolo, diciamo così, a un'inflazione che ritiene in maniera inaccettabile troppo bassa. La Bank of England oggi si è saputo che si prepara con un piano straordinario l'ipotesi di Brexit, cioè di un eventuale, lo scenario peggiore, che la Gran Bretagna esca da Europa, terrorizza tutta la finanza britannica, gli industriali britannici, insomma. Praticamente la Bank of England starebbe lavorando alla creazione di un fondo da miliardi di sterline in liquidità extra da offrire alle banche del Regno Unito, con un'operazione simile a quella che fu utilizzata nel 2008, quando Royal Bank of Scotland su tutte, ma anche altre banche, ebbero enormi problemi in Gran Bretagna. E lo stesso governatore della Bank of England, Mark Carney, ha detto in un'audizione di fronte alla Commissione Tesoro della Camera dei Comuni, ha detto insomma la Gran Bretagna ha avuto un elemento di grande dinamismo dall'adesione all'Unione Europea. C'è il rischio che molte grandi banche lasciino la City se l'Inghilterra dovesse uscire dall'Europa. E sull'intesa Unione Europea-Turchia, faccio notare che il direttore dell'ONU, dell'Agenzia ONU per i rifugiati, UNHCR per l'Europa, Vincent Costel, ha detto che l'intesa sulle espulsioni collettive di stranieri verso un paese terzo non è in accordo con il diritto europeo e internazionale, quindi andrebbe a violare l'accordo che prevede di riportare in Turchia buona parte dei rifugiati che sono attualmente ad Atene, andrebbe a violare, visto che la Turchia è paese terzo, non è dell'Unione Europea, e Amnesty International parla di un colpo mortale al diritto di asilo. Però la commissaria, la portavoce della Commissione Europea, Alexander Wittgenstein, ha detto: i dettagli che saranno elaborati da qui al prossimo summit europeo del 17-18 marzo saranno sicuramente in linea con le leggi europee e le leggi internazionali. Ancora due notizie, poi partiamo con il primo tema. La parte infrastrutturale, ieri non ce l'abbiamo fatta, ma nel corso del Mobility Conference Exhibition a Milano è intervenuto il ministro Graziano Del Rio, il quale ha detto: attenzione, insomma, i fondi ci sono per la parte infrastrutturale, non c'è un problema di risorse per le infrastrutture, ma c'è un problema di progetti, non abbiamo ancora maturità progettuale in alcune opere, e infatti se alcune opere sono incompiute perché i progetti sono stati fatti male. Delle volte mi vengono presentati project financing, dei progetti dove l'elemento finanziario di recupero della parte finanziaria è fantasioso. Dobbiamo renderli concreti e realizzabili. Ascoltiamolo al microfono della nostra Livia Zancanera. Stiamo lavorando molto sul porto di Trieste, sulla connessione tra il porto di Trieste e appunto il Nord Europa, e sui grandi corridoi europei l'Italia sta lavorando con grande intensità. È chiaro che abbiamo fatto la riforma del codice degli appalti esattamente per permettere a queste opere pubbliche di essere più rapide e più sicure nei tempi di realizzazione. Un'opera per essere sicura, per essere realizzata in tempi certi, non ha bisogno di avere procedure complicate. Noi ci adattiamo alle direttive europee, facciamo una rivoluzione della normalità, come la definisco, cioè il fatto che le procedure standard devono essere molto più semplificate, ma non per questo saranno meno sicure e meno efficaci. Lo dimostra il fatto che molte opere anche riusciamo a realizzarle ormai in tempi previsti, proprio quando scegliamo le vie più semplici e non scegliamo di infilarci in una serie di procedure che, invece che essere accelerate, alla fine risultano completamente inadeguate. L'Italia sta realizzando queste opere, l'esempio di rete ferroviaria è importante. Io vorrei sottolineare che nel 2015 RFI ha aumentato i suoi investimenti del 30% e un altro 30% lo aumenteremo nel 2016, quindi prevediamo di aumentare del 50% almeno complessivamente gli investimenti di RFI in meno di 2 anni. È un esempio importante, credo, di efficienza anche del sistema italiano, che si è messo in grado con le nuove regole di procedere ancora più speditamente, potrà diventare un esempio invece che un problema in Europa. E sempre al microfono la nostra Livia Zancaneri, il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, che ha ricordato l'importanza degli investimenti infrastrutturali non solo per la parte produttiva di maggiore competizione, ma anche in una logica, in un'ottica ambientale. Diciamo che stiamo avanzando a un ritmo troppo lento. Importantissime le infrastrutture, che abbiamo oggi dimostrato che per esempio buone infrastrutture fanno risparmiare 6 milioni di emissioni di CO2 in quest'area. Quindi dobbiamo farle per facilitare la vita del cittadino, delle merci, delle imprese e anche dell'ambiente. Siamo in ritardo, però mi sembra che il governo stia seguendo l'idea di avere delle priorità. Quindi meno opere, però più priorità, e poi quelle finirle veramente. Quindi questo è il lavoro su cui mi sembra che si cominci a convergere. Un esempio tipico è la Brebemi. La Brebemi l'abbiamo realizzata, mancano 13 chilometri che non sono neanche un investimento importante, va finita. La Pedemontana è un'altra iniziativa importante, il collegamento della Malpensa all'alta velocità. Poi abbiamo parlato a lungo della città metropolitana, che può risparmiare molti trasporti attraverso anche l'uso dei sistemi digitali. L'abbiamo visto col car sharing, perché ci sono molti spostamenti punto punto che non possono essere fatti da sistemi stabili e devono essere realizzati anche da privati attraverso questi meccanismi di co-sharing e di trasporti l'uno con l'altro. Quindi questa può essere una smart city, e sui trasporti si può fare moltissimo anche per l'ambiente. Allora, vedo che sull'8 marzo qualcuno mi scrive: auguri soprattutto alle cubiste che ballano con la sua musica. Ma meno male che ballano, voilà, con questa economia che stiamo raccontando, asfittica, che cresce lentamente, con tutte le polemiche, con l'Europa che sta per guadagnarsi l'Oscar dell'insipienza politica, dell'indecisione politica, del tentennamento politico su tutti i fronti. Però quando poi ci sono i conti pubblici, adesso Dombrovskis, che è il vicepresidente della Commissione europea, ha detto: la procedura contro l'Italia dipende dal piano di riforme, può essere messa nel braccio correttivo della procedura di braccio correttivo, ma insomma la richiesta di correzione può scattare in qualunque momento. Vabbè, ma sono questi i problemi. E allora parliamo di questi problemi. Lo facciamo con Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore, in collegamento da Bruxelles. Adriana, buonasera. Buonasera. Ho trovato bellissimo il tuo titolo, L'Europa spaccata al gran ballo del sultano, che nel giorno dell'8 marzo fa apparire anche tutte voi come delle odalische in qualche modo, ma in realtà le odalische mi sembra che siano i paesi europei, se posso usare il tuo esempio. E poi ringrazio anche Guido Gentili, editorialista sulle 24 ore sui temi di politica, soprattutto nazionale. Buonasera Guido. Buonasera, buonasera. Adriana, poi arriviamo adesso al tema della manovra e dei conti pubblici, però vorrei ripercorrere due passaggi. Insomma, tu dici sostanzialmente, non scrivi calato le braghe, ma dici sostanzialmente che l'Europa ha dovuto, nonostante tutto, abbozzare alle richieste di una Turchia che non solo prende 3 miliardi, ne ha chiesti altri 3 miliardi, in cambio prenderai i rifugiati greci nel suo suolo, e ha dovuto abbozzare nonostante i valori fondamentali europei come libertà di stampa, espressione, parità di genere, tutela delle minoranze, quella curda in primo luogo, in Turchia proprio non siano esattamente, non abbiano dignità di cittadinanza. Cos'è meglio, una realpolitik che dice vabbè faccio l'accordo con la Turchia perché sennò collassa il fronte diciamo orientale dell'Europa, la Grecia, oppure bisognava tenere botta sui valori e non accettare che la Turchia ci ricattasse anche sui visti, anche sulla procedura per entrare in Europa e ci ricattasse attraverso i profughi? Beh, io credo che diciamo tra queste due visioni estreme ci possa essere il famoso negoziato, che è quello che l'Europa non sa fare. L'Europa in questo momento, perché è assolutamente divisa, e la Merkel è terrorizzata dalle elezioni di domenica e dal fatto che tutto sembrerebbe indicare che l'opposizione all'interno del suo schieramento, ma soprattutto fuori con il famoso partito di Alternativa per la Germania, possa addirittura diciamo ottenere dei risultati diciamo piuttosto favorevoli per appunto gli anti-euro, gli anti-immigrati. Quindi l'Europa non è in grado di negoziare, perché voglio dire, mettersi a parlare con la Turchia, che ospita 2,5 milioni di siriani, non è una cosa sbagliata. La Turchia, da cui partono tutti i grandi flussi che arrivano dal Medio Oriente, eccetera. Quello che è sbagliato è che il giorno prima di presentare questo nuovo accordo, la Turchia ha deciso di chiudere praticamente e riaprire uno dei grandi giornali di opposizione, Zaman, semplicemente cambiando il consiglio di amministrazione e il direttore. Cioè, sono cose secondo me intollerabili. In Turchia stanno studiando di togliere l'immunità ai membri del partito curdo, quello che vinse le ultime elezioni, diciamo impedendo a Erdogan di essere eletto come voleva la prima volta, la seconda naturalmente c'è riuscita. Quindi è questo, voglio dire, questi rapporti con un regime autoritario e indubbiamente liberticida, è questo il fatto che secondo me non va. L'altro fatto che non va è il fatto che si discrimini a questo punto tra rifugiati. Ora, naturalmente il diritto di asilo non consente di fare differenze, impone di analizzare lo stato del rifugiato e poi di decidere se hai requisiti oppure no. Nel caso di questo accordo con la Turchia, con questi accordi di riammissione, in sostanza invece non si distingue, si manda via tutti prima ancora di aver visto, analizzare, cioè, le loro condizioni e quindi gli eventuali requisiti, e poi si affida questo compito alla Turchia, e dalla Turchia si prenderanno uno contro uno i siriani buttati fuori dalla Grecia e poi invece diciamo legittimati ad entrare dagli europei, dalla Turchia. Quindi, cioè, allora, diciamo, posso fare la battuta? Noi riconosciamo alla Turchia un tale valore, diciamo, democratico, che ci affidiamo anche a lei nella valutazione dei profughi, se posso usare la battuta in questo modo. Nel senso che io non ce l'ho con la Turchia, però diciamo il governo Erdogan è tutto tranne che un governo democratico in questo momento, per come noi definiamo democrazia. Cioè, chiudere un giornale in quel modo, ma non lo dico perché faccio giornalista, perché anche Putin lo abbiamo definito non democratico, e ricordo che sulla Russia di Putin ci sono fior di sanzioni per la vicenda ucraina e di contro sanzioni che tanto penalizzano le nostre imprese. Per cui insomma mi chiedono dunque, mi dicono gli ascoltatori, beh, la Merkel fa cose turche. Sì, vabbè, apprezzo la battuta. Sì. Dov'è la Mogherini? Questa è la domanda. Mogherini, poverina, in questo ecco, caso. Ecco, è la difficile. Ecco, hai già detto, hai già detto, hai già detto. Mentre mi sembra che quello che tu stai rivendicando non è un'Europa che non doveva. È ovvio che la Realpolitik devi anche mettere in pratica. Se tu hai queste pressioni, non puoi far finta di che la Turchia non conti, che la Turchia non ti dia una mano. Se ho ben capito, tu dici si può, però c'è modo e modo di negoziare. Un conto è dire, negoziare. Tu arrivi al tavolo con tre pari o esatto, col cappello in mano, questo o è con il le punto. Braghe calate. Esatto, o con un aggravante che non ho citato. Non ci dimentichiamo che Austria e i paesi dei Balcani hanno deciso di chiudere la frontiera nord della certo. Grecia. E questo è entrato nel comunicato finale nonostante l'opposizione della Merkel. Quindi voglio dire, lì c'è poi un grandissimo rischio che noi regaliamo 6 miliardi alla Turchia per gestire gli accordi di riammissione eccetera eccetera. Se forse dessimo un po' più di soldi alla Grecia per diciamo, gestire la sua emergenza, invece per esempio proprio ieri alla riunione dei ministri finanziari dell'Eurogruppo, Schäuble ha detto non è assolutamente questione di mescolare i due piani. La Grecia deve assolutamente stare agli accordi sul antidebito eccetera eccetera e non importa se nel frattempo è soffocata da questa emergenza immigrati. Anche questo è una posizione insensata dell'Europa. Assolutamente insensata. Sì, sì, devo dire che Schäuble non perde mai l'occasione per deluderci. Allora, resta con noi Adriana, poi c'è anche Guido Gentili, meteo, pubblicità. Vorrei capire come si sarebbe dovuto negoziare, perché ripeto, un negoziato è ovvio che devi aprire, se negozi ti apri poi le concessioni e la Turchia ti serve, però altra cosa dire, hai chiesto, erano 3 miliardi, adesso sono 6, te ne diamo 6, la Grecia sta vedendo i soldi col contagocce come tu ricordavi, nessuno ha neanche ipotizzato di non farle rispettare diciamo le clausole poste dalla Troica, visto che sta gestendo, lo racconteremo fra poco con le nostre inviate lì ad Atene e al confine con la Macedonia. Ha chiesto la Grecia, ha ipotizzato che la Grecia potesse sforare deficit per la situazione di emergenza, ma la Turchia chiede altri 3 miliardi, dicisi 3 miliardi di euro, nel giorno in cui l'Europa ci rompe le scatole sul debito e sui conti, nessuno batte ciglio e nessuno ha da protestare. Questo è, io temo che anche in questo caso stiamo piegando le esigenze dell'Europa alle esigenze della Germania, che deve chiudere per motivi politici un accordo e tranquillizzare l'elettorato. Vorrei la risposta dopo il meteo e poi Guido Gentili. Focus Economia. Allora, Adriana Ceretelli, perché tutta questa fretta, al di là dell'emergenza, di chiudere al ribasso senza chiedere alla Turchia di Erdogan bene, ma insomma, dando un trattamento così diverso? È vero che ieri Tsipras ha avuto anche un accordo con Asmin, ma insomma, dando un trattamento, ho l'impressione di un trattamento così diverso tra la Grecia, che se li sta accogliendo ed è in Europa, e la Turchia, che dopo 3 miliardi ne ha chiesti altri 3, senza fare neanche un accenno alle situazioni inaccettabili dei diritti civili in quel paese. Ma io dicevo allora, la fretta della Germania. Sono diverse, naturalmente. Primo, sono le elezioni tedesche in 3 Länder importanti domenica prossima. La Merkel traballa in qualche modo. È vero che ha la forza del fatto che non ha dei grandi avversari, ma è altrettanto vero che diciamo la sua popolarità non cessa di scendere. Quindi ha bisogno disperato di dare al paese il segnale che è in grado di controllare i flussi, cose che invece per ora non, certo. non quindi si politica interna allora, tedesca. La seconda ragione secondo me è l'estrema divisione dell'Europa, nel senso che la solidarietà è scomparsa, ma quello che è peggio, non si riesce a coagulare un accordo su un minimo comune denominatore, nel senso che gli interessi sono totalmente diversi. Citavo prima l'Austria, che fa l'accordo unilaterale con i Balcani per chiudere la frontiera nord della Macedonia. Per esempio la Turchia e la Bulgaria hanno già accordi che blindano le frontiere. A nord ci sono gli scandinavi che o espellono in massa o sequestrano i micro averi di questi rifugiati semplicemente per mantenerli. Non ci sono la stessa Francia, per esempio, che non alza la voce, è assolutamente contro le quote per la ripartizione dei rifugiati tra europei. Non parliamo dei paesi dell'est che non vogliono sentire ma neanche cominciare a discutere di accogliere rifugiati e men che meno di religione diversa da quella cristiana. Quindi Belice, diciamo, è tutta un'Europa che va per conto suo, dove crescono i muri, i nazionalismi, non si collabora, per cui però insomma, domanda, è obiettivamente difficile. Sì, quindi la Turchia ha buon gioco. La Turchia si infila in mezzo a parenti che litigano, mettiamo così. Però le sanzioni paventate contro l'Austria, cioè secondo me poi tu riporti un po' di ordine, se riesci anche a dare dei messaggi. Le sanzioni contro l'Austria non sono neanche in discussione, perché l'Austria in maniera unilaterale blocca il suo confine, non potrebbe farlo, chiedo, no, visto che adesso parleremo con Guido di quanto attenti siano i conti pubblici, debito, non debito, deficit, chiedo Adriana. Sì, non può farlo. In realtà l'Austria ha notificato la sospensione di Schengen. Ora, per ragioni eccezionali, la sospensione di Schengen si può fare, tanto che sono 9 paesi che attualmente hanno sospeso Schengen. Ma il problema nel caso dell'Austria, l'illegalità commessa è un'altra. Questa ha posto un tetto di 80 profughi giornalieri da accogliere, e al tempo stesso un tetto di 3.200 per i rifugiati che transitano per andare in Germania. Ora, questo non è possibile per la legge europea e per la legge internazionale, per la Convenzione di Ginevra sui profughi, perché, come dicevo, non si può discriminare, centellinare il numero dei profughi, perché se uno è un profugo non si può dire quanti se ne possono fare entrare o uscire. I profughi, sono dei disperati, fuggono per la vita, quindi sei obbligato a dare loro alloggio provvisorio in attesa poi di esaminare se il caso esiste o meno, ma non puoi chiudere la porta, porre dei tetti, eccetera, eccetera. Quindi sono dei comportamenti fuori legge. Sì, ma nessuno li sta sanzionando, questo è quello che tu ci stai dicendo, perché la debolezza, a mio avviso, dell'Europa, gestione Juncker, attrazione senza, però con l'assenza di leadership tedesca, è anche questo. Guido Gentili, poi ti prendo anche dopo il traffico, però insomma non è... Forse sono io che esagero, ma non è un po' strano oggi commentare da un lato questa insipienza, incapacità, questo pronarsi al turco, al sultano, c'è qua gente che mi scrive della battaglia di Lepanto, ragazzi non andiamo troppo indietro, sappiamo tutti della battaglia di Lepanto, però si chiamava Sebastiano Venier, se non ricordo male, comandante della flotta veneziana, però dico, e dall'altra parte Domonvroskis che dice attenzione l'Italia, vedremo, può andare nel braccio correttivo la richiesta di correzione dei conti pubblici? No, non è una conferma di un'Europa che sa solo fare il ragioniere? Purtroppo sì, è la conferma di un'Europa che è divisa, e in questa divisione l'unica cosa che gli riesce bene è farle ragionare sull'intero virgola. Ovviamente poi anche qui non rispettando le regole uguali per tutti, ma poi ponendo un giudizio assolutamente discrezionale sulle decisioni dei singoli paesi. E quindi questa oggi è la fotografia dell'Europa. E dopo il traffico, nel ringraziare Adriana Ceretelli, con Guido Gentile invece affrontiamo il tema dei conti pubblici italiani. Oggi Renzi e Padoan hanno gettato acqua sul fuoco, detto non c'è nessun bisogno di una manovra, ma poco fa appunto le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione Europea Domonvroskis. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Traffico. Focus Economia. Sì, scrivono gli ascoltatori, l'Europa ormai è solo una moneta, purtroppo se non rialza un po' la testa, non possiamo tornare sul tema, ma è un'Europa senza leadership e ripeto, il paese più forte di questa Europa non può solo imporre e preoccuparsi di Mario Draghi o della Grecia o del decimale, se sei più forte, si chiama Germania, devi assumere anche la leadership, quindi portare tutti con te, se no ognuno per sé, Dio per tutti. Guido, però, insomma, quanto è seria la minaccia di una bocciatura dei nostri conti pubblici, deficit e debito soprattutto? Guarda, io direi mettiamoci comodi da qui fine a maggio, quando ci sarà l'esame finale sulla politica economica italiana. Vedremo quali dati arriveranno da qui a maggio, se il PIL darà segnali di ripresa o no, e tanti altri elementi ci aiuteranno a capire come sarà la trattativa. Da oggi in poi sarà uno stop and go con il governo italiano, che dirà: noi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, come ha detto oggi Renzi e lo stesso ministro dell'economia, il debito scenderà, la ripresa ci sarà, e l'Unione Europea che dirà: attenzione, perché voi state sforando dal lato del debito, e quindi questa è una preoccupazione, e da qui le dichiarazioni sul braccio preventivo, il braccio correttivo, il braccio armato, e quindi giocheremo sul filo di questi zero virgola per capire se questo debito scenderà o no. Io credo che alla fine dobbiamo convincerci di una cosa, che il fiscal compact significa in pratica che deve scendere il deficit e deve scendere il debito contemporaneamente. Questa cosa sappiamo ormai, se non altro per prassi, che non è possibile. Quindi dobbiamo attrezzarci nel migliore dei casi, a una trattativa sul filo dei decimali con l'Unione Europea, che alla fine ci dice: ok, magari dirà che bisognerà fare una piccola manovra correttiva, la controrisposta sarà: non c'è bisogno di fare nulla, perché ad esempio sul fronte del rientro dei capitali ci sarà uno spazio maggiore rispetto alle previsioni, e quindi sarà sostanzialmente indolore. Però questa, secondo me, è la prospettiva da qui alle prossime settimane. Sei stato chiarissimo, per cui non è una prospettiva, diciamo, non così eccitante dover raccontare il balletto di cifre tra i decimali senza nessun piano di respiro, perché questo poi si chiede anche all'Europa per quello che riguarda l'area euro, non solo sei al 2.6, sei al 2.7. Stiamo morendo in questo modo, però ormai sono quasi scolato anch'io, e vediamo già tutte le resistenze che si stanno alzando in Germania sul fronte Banca Centrale Europea. La riunione di giovedì prossimo, chiarissima la tua analisi, Guido, mettiamoci seduti comodi, tanto questo sarà il botta e risposta che ci accompagnerà fino a maggio. Temo che l'Europa, e lo temo veramente a maggio, dovrà affrontare di nuovo il caso greco, ma noi ne parliamo dopo il GR24. A chi continua a scrivermi sui turchi, Lepanto, ma ascolta, lasci stare Lepanto, anche perché se lei conosce Lepanto, che è stata una grande vittoria cristiana contro i turchi, deve ricordarsi anche di Famagosta, dove un'altra volta i paesi cattolici non riuscirono a mettersi d'accordo tra Papa, Spagna, Francia e Venezia per aiutare il povero Marcantonio Bragadin, che fu scuoiato vivo dai turchi, ok? Proprio perché non ci si mette mai d'accordo in questa Europa. Quindi se cita Lepanto, citi anche Famagosta. Grazie Guido Gentili, GR24. Inizia la settimana della moda. Il giallo è il colore di questa stagione, fresco, solare, mai banale. Nuovi abiti per... Ma di cosa stiamo parlando? La moda ti annoia? Allora, vestiti senza censure. Arrivano le t-shirt della trasmissione più dissacrante di Radio 24. L'imperdibile divisa che ogni militante dell'esercito della Zanzara deve possedere. Scopri come averle su lazanzara.radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Oh, mi raccomando, il 12 marzo segnatevi sull'agenda questa data. Ci dovete seguire in un mondo a 24 zampe. Perché? Perché io, Rosita Celentano e Angelo Vaira ti aspettiamo a Milano per Chiedimi se sono felice live, un altro evento fantastico esclusivo dedicato agli animali e all'importanza della loro presenza in famiglia. In famiglia, perché il focus è la genitorialità di questo incontro. Vi aspettiamo a Milano all'Arena Civica Palazzina Appiani, sabato 12 marzo ore 15. Ciao! In collaborazione con Adoc Day by Day, il buono di ogni giorno per cani e gatti. L'Europa al bivio greco, con Radio 24, nel cuore della crisi. Dal 7 al 12 marzo, Radio 24 vi accompagna in un viaggio nel paese che più di tutti racconta la profonda crisi dell'Europa contemporanea. Immigrazione e scontro con Bruxelles, crisi economica e occupazionale, crisi di identità di un paese che si riflette sull'intero continente. Dai Domeni, dove migliaia di migranti premono alle porte della fortezza Europa, fino ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. Radio 24, con i suoi inviati, i suoi conduttori e gli esperti in studio, percorre le strade della Grecia per cercare di comprendere il cammino dell'Europa. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo alla borsa e poi ci trasferiamo appunto in Grecia, al confine di Idomeni e ad Atene. La borsa oggi vede come caso negativo Saipem, -13%. Cosa è successo? Che le banche hanno collocato oltre la metà dell'inoptato, cioè della parte di titoli che, della parte di non sottoscritta all'aumento di capitale, lo hanno fatto a un livello basso e il titolo scende appunto a 36 centesimi di euro per azione. Tenaris -4,50% come Fiat Chrysler, CNH Industrial -3,30% come Eni, Anima -2,40% come Steamark Electronics, l'1,60% lo perde la Pop Emilia Romagna, l'1,50% Unipol. Bene, Luxottica +3,20%, Buzzi Unicem +3%, Ferrari +2,80%, Finmeccanica -1,90% come Mediolanum, l'1,70% lo guadagna la Pop Milano, l'1,50% Mediobanca e Unipol Sai e anche Tods. Guido Maurino, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Immagino che tutto il mondo bancario sia in attesa di giovedì, anche perché appunto stanno arrivando parecchi mal di pancia dalla Germania sulla Banca Centrale Europea di giovedì, e domani dovrebbe esserci l'incontro decisivo per la fusione Banco Popolare e Popolare di Milano. Vorrei andare però anche su Luxottica, oltre che su questi due titoli. Sì, allora, per quello che riguarda Banco Popolare e BPM, domani i vertici saranno a Francoforte per cercare di ottenere un sostanziale via libera della Banca Centrale Europea all'operazione di fusione, visto che proprio la Banca Centrale Europea è quella a cui spetta la vigilanza sui due istituti. C'è molta attesa per questo incontro che, se andasse bene, potrebbe aprire le strade all'operazione e nel fine settimana potrebbe essere già annunciata la fusione. In caso negativo invece c'è il rischio che tutto possa slittare addirittura in autunno. Oggi il Banco Popolare ha ricevuto lo 0,46%, BPM ha guadagnato l'1,87%. Per quello che riguarda Luxottica, che oggi ha guadagnato oltre il 3%, invece il merito, diciamo così, è soprattutto degli acquisti arrivati nei giorni scorsi da parte dell'azionista Leonardo Del Vecchio, che è in una situazione un po' di difficoltà del titolo, è intervenuto, ha comprato azioni per quasi 80 milioni di euro e oggi su questa notizia un pochettino anche il mercato ha scommesso sul titolo di Occhiaieria. Sì, più in difficoltà sulla parte manageriale forse che sul titolo in senso stretto. Allora, andiamo avanti con il resto. Invece Saipem, allora, spieghiamo bene cosa è successo e a che prezzo hanno collocato le banche la buona parte dell'inoptato. Sì, allora, ieri le banche hanno collocato a forte sconto il 6,3% del capitale. L'hanno collocato comunque a un prezzo più alto rispetto a quello a cui era avvenuto l'aumento di capitale. Sì. Questo ha voluto dire che per le banche che sono, diciamo così, uscite dal capitale di Saipem si è comunque aperta una piccola plusvalenza. Il titolo però oggi ha ripiegato, perché quando ci sono questi collocamenti molto importanti di azioni sul mercato, hanno collocato il 6,3% del capitale, spesso il giorno successivo i titoli cadono in modo importante. A questo c'è unito anche il fatto che tutti un po' gli energetici oggi hanno sofferto, ma in modo particolare per Saipem è proprio questa operazione che ha fatto sì che oggi il titolo sia crollato. E torneremo sull'operazione Saipem, vedo molti ancora arrabbiati, oggi vanno male, ripeto, tutti gli energetici, citavo Eni, -3,20%, e non è l'unico. Sugli altri bancari, Banco Popolare -1,17%, Monte dei Paschi -1,40%, Un ascoltatore mi chiede di Azimut più 1% come Telecom Italia e Unicredit. Ancora, migliori e peggiori in assoluto in questa seduta. Per quello che riguarda i migliori, Acotec Group più 10%, Innovatec più 8,60%, Bridge Management più 5,20%. Il fronte opposto invece vede appunto Saipem meno 13%, Ross meno 7,90%, TAS meno 6,90%, Digitouch meno 6,80%, RCS Rizzoli Corriere della Sera, Media Group meno 6,70%. Grazie Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. E adesso, dall'analisi dell'Europa di come male si è comportata o la barra che ha tenuto con la Turchia, mentre continua a essere molto ragionieristica sui conti pubblici, andiamo, come si dice in gergo, sul campo, cioè andiamo a raccontare dopo le informazioni sul traffico che cosa stanno testimoniando e stanno registrando le nostre due inviate, Valeria De Rosa da Atene e Valentina Furlanetto da Indumenia, confine con la Macedonia. Focus Economia. L'Europa al bivio greco, con Radio 24 nel cuore della crisi. Eh sì, mentre l'Europa, diciamo quella istituzionale, si abbassa, si piega, non riesce ad aprire, come raccontava molto bene nella prima ora del programma, aprire una trattativa seria con la Turchia, e sembra invece essere sotto scacco, 3 miliardi, no, 6 miliardi, soprattutto rinviato a 18 marzo, vedo che la Merkel poco fa ha detto no, comunque c'è stato un passo in avanti nelle trattative. Vabbè, per lei sicuramente, che ha elezioni amministrative domenica. Noi ci colleghiamo da un lato appunto con Valentina Furlanetto, che è a Idomeni, al confine con la Macedonia, un campo profughi, della maggior parte sono siriani, che ha già oltre 13.000 persone. Valentina, ci senti? Buonasera. Sì, buonasera Sebastiano, vi sento bene e ti correggo subito perché in effetti i numeri cambiano. Davvero di ora in ora, e mi dicevano poco fa dall'UNHCR che abbiamo superato le 14.000 persone. Perfetto. Questo perché oggi non è passato nessuno, ieri sono passate poche decine di persone e quindi le persone continuano ad arrivare dalle isole dell'Egeo e da Atene, e il campo insomma in questo momento è al collasso. E grazie anche a Valeria De Rosa, che è in collegamento da Atene, sul doppio fronte. Atene è comunque un centro di smistamento di questi rifugiati, ma è anche il paese, come raccontiamo da settimane, che si sta sobbarcando il costo più alto. L'Unione Europea ha stanziato 750 milioni di euro di aiuti fuori di Atene. Valeria, ci senti? Sì, buonasera Sebastiano, vi sento, sono nella centralissima piazza Sintagma e come dicevi anche Atene è un centro che in questo momento sta accogliendo centinaia e centinaia di persone. Qui i centri sono 5, accolgono al momento svariate migliaia di persone. Nel paese, ci ha appena detto il viceministro all'economia, ci sono all'incirca tra le 40.000 e le 50.000 persone arrivate negli ultimi mesi e che ancora non sono riuscite a lasciare il paese. Ma una stima di quante siano invece i rifugiati ad Atene, Valeria, è disponibile? Allora, in questo momento non ci sono cifre sicurissime, diciamo che ad Atene ci dovrebbero essere all'incirca tra le 15.000 e le 20.000 persone. E la sensazione, parto da te perché poi vorrei arrivare a Valentina Furlanetto, la sensazione sul fronte più politico, che la Turchia, nota l'amicizia diciamo tra la Grecia e la Turchia, insomma, che la Turchia sia stata trattata meglio e abbia avuto una corsia preferenziale, mentre la Grecia ha dovuto chiedere, pur essendo membro a tutti gli effetti dell'Unione Europea e dell'area euro, abbia dovuto chiedere soldi che sono arrivati col contagocce. Si respira ad Atene? Questo si respira, è una sensazione palpabile, anche se il viceministro non ne ha fatto apertamente parola con me, ma certamente in questo momento il paese è talmente stremato che ha bisogno che la Turchia quantomeno venga incontro e quindi metta nero su bianco uno di quei principi che sono stati discussi ieri, e quindi del uno per uno, quindi si riprenda indietro tutti quelli che non hanno diritto d'asilo. C'è da dire che nelle scorse giornate la Grecia ha già cominciato a rimandare in Turchia soprattutto afghani e iraniani che non hanno diciamo accesso al diritto d'asilo, e diciamo anche che in questo momento Tsipras ne ha fondamentale bisogno, anche perché nel 2015 la Grecia ha speso qualcosa come 1 miliardo per fronteggiare questa crisi dei migranti, a fronte di soli 30 milioni che sono arrivati da Bruxelles fino a questo momento. Quindi è vero che ne sono stati stanziati 750, ma sono per i prossimi tre anni, e per il momento Atene ha visto solo 30 milioni, il che si innesta su una crisi economica che qui è ancora assolutamente visibile e palpabile, lo si vede per le strade perché molti negozi continuano a rimanere chiusi e perché tanta gente vive ancora per la strada. Detto questo, la solidarietà della Grecia nei confronti dei migranti è veramente enorme, qui non si contano i punti di ritrovo per donare abiti, per raccogliere generi alimentari, per cercare in qualche modo di dividere quello che loro hanno con chi arriva in questa terra e che ovviamente non vuole fermarsi qui, anche perché qui di possibilità non ce ne sono. Allora, lo dico senza retorica perché non è un tratto di questo programma, però onestamente... il raffronto tra il tipo di accoglienza che i greci stanno dando, pur essendo in ginocchio, tu ricordavi un miliardo l'anno scorso in un paese che ha una situazione molto molto critica dal punto di vista delle finanze pubbliche, delle riforme chieste e anche penso alla riforma delle pensioni, stride veramente con l'atteggiamento di estremo egoismo, non ho problemi a pronunciare questo termine, di altri paesi che hanno tutt'altra situazione economico-finanziaria, penso all'Austria, penso alla Slovenia, penso alla Repubblica Ceca, all'Ungheria, e che hanno detto no, massimo 80 nel caso austriaco, cioè che voglio dire non hanno neanche minimamente i problemi della Grecia, né sono sottoposti al rientro delle finanze pubbliche a cui è sottoposta la Grecia, in parte perché truccò i conti, in parte perché abbiamo sbagliato tutto come europei e come tedeschi nel gestire la crisi greca. Va ricordato, perché i greci avevano tanti difetti, ma sicuramente non quello di palesare un egoismo prima ancora che sia necessario come in altri paesi. So che questa cosa potrà non piacere, ma tant'è. Valentina Furlanetto, poi con Valeria De Rosa torneremo nei prossimi giorni a raccontare il fronte economico, perché c'è il fronte degli aiuti ai rifugiati, ma c'è anche una Grecia che io temo, spero di sbagliarmi, a giugno si riproporrà come maggio-giugno come problema sulla tenuta dei conti pubblici. Valentina Furlanetto, la situazione nel campo profughi di domeni, qual è, oltre al numero di profughi che tu ci raccontavi essere già aumentato di 1000 persone dall'ultimo dato? La situazione è veramente di grande tensione e di grande sconforto, soprattutto perché penso che sia stato, e mi dicevano le ONG che veramente stanno tenendo alto da sole l'onore dell'Europa in questo momento ai domeni, perché stanno distribuendo cibo, tende e quant'altro, la situazione è al suo piccolo picco di disperazione, perché ieri c'è stato un temporale di 3 ore e in una situazione in cui queste persone vivono in tende di fortuna, alcuni hanno dormito addirittura all'aperto sotto un'acqua scrosciante in mezzo al fango, chiaramente tutto questo ha reso difficile e anche ha esasperato le persone. Ci sono molti casi, soprattutto fra i bambini, di malattie respiratorie. L'ambulatorio di Medici Senza Frontiere oggi aveva una coda lunghissima ed alcune di questi bambini sono stati portati all'ospedale. Due ragazzi sono stati colpiti da scariche di alta tensione sulla ferrovia. Ci sono casi di persone che sono state stabilizzate proprio perché per il freddo, per le condizioni in cui vivono, scarseggia il cibo, scarseggiano anche le tende in questo momento. Abbiamo visto scene di disperazione di profughi coperti da sacchi di immondizia questa mattina, perché non avevano più i vestiti erano tutti bagnati, e allo sconforto si è unita anche lo sconforto di sentire da Bruxelles di questa ipotesi di accordo con la Turchia. Io ho parlato con alcuni curdi siriani che all'idea di venire riportati in Turchia, non solo perché sarebbe la casella 1 di questo assurdo gioco dell'oca che stanno facendo, hanno speso molti soldi per arrivare fin qui, ma anche perché sappiamo come la Turchia tratta le persone nazionalità di origine curda. Quindi sono tanti i problemi che si vanno accavallando, le ONG fanno del loro meglio, Human Rights Watch oggi mi diceva il responsabile emergenze, questa non è una crisi umanitaria, questa è una crisi umanitaria che è stata provocata dalle politiche dell'Europa. Stata provocata in primis dalla guerra in Siria, nel senso che adesso diamo a Cesare quel che è di Cesare, quindi, e dalla gestione anche dei vari paesi, Stati Uniti, poi la Turchia ha delle grossissime responsabilità. È la chiusura ovviamente del confine. Chiaro. E il fatto che non ci sia un vero campo profughi, questo è un campo profughi allestito Valentina, ma gli unici aiuti arrivano, io lo dico a chi scrive, possiamo pensarla come vogliamo, però una volta che tu hai i bambini, le donne, i profughi, non è che li puoi lasciare morire di fame. Di cosa stiamo parlando, per favore? Gli aiuti concreti arrivano, da quello che ho capito dal tuo racconto, solo ed esclusivamente dalle ONG. Cioè non c'è... Allora, essenzialmente le ONG che sono qui, e dall'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU e anche dal governo greco, dalle autorità greche che hanno allestito ad esempio un piccolo ambulatorio, c'è la polizia che sorveglia e aiuta talvolta, ha un atteggiamento abbastanza benevolo nei confronti dei profughi, si trova d'altra parte a gestire una situazione molto difficile. Questi profughi sono accampati anche sulla ferrovia dove passano 3 treni al giorno, quindi anche una situazione di sicurezza abbastanza difficile da gestire, quindi anche il governo greco sta contribuendo e moltissimo certamente tutto il settore umanitario. Ma il flusso, giusto per capire un'ultima cosa, ma il flusso di profughi, quando tu sei arrivata da cosa hai fatto, Salonicco? Da Salonicco si vede già a occhio nudo, sì, diciamo. Si vede, allora lungo la strada c'è una quello che è un autogrill a Policastro, che è a metà strada circa, dove ci sono delle tende. Proprio lungo la strada si vede un accampamento di tende che sono state portate anche da greci. Lì ci siamo fermati, mi sono fermata e c'erano delle volontari greche, delle greche, delle donne, una l'abbiamo anche mandata in onda 2 giorni fa, Costantina, che portavano appunto vestiti e quant'altro, e già lì si fermavano delle persone. Poi lungo la strada si vedono le persone arrivare proprio con i bagagli sulle spalle, con i bambini in braccio, ci sono anche disabili, quindi è un flusso proprio, loro si passano parola e questo è un imbuto in cui tutti si vanno a trovare. A collocare. Allora, grazie a Valentina Furanetto che domani rientrerà, per cui che da 3 giorni ci sta raccontando quello che, lo racconterà anche domani, quello che sta capitando in domani invece avremo di nuovo in collegamento Valeria De Rosa, perché vorrei chiudere il fronte economico di Atene. Ripeto, insomma, il giudizio è inutile continuare a darlo, è molto netto, molto chiaro per quello che ci riguarda. Grazie appunto alle 2 inviate di Radio 24, Valeria De Rosa da Atene, Valentina Furlanetto da Idomeni. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Berisoni, comunque, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.